A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La sospensione del trattato di Schengen, messa in atto da diversi paesi europei come Austria, Danimarca, Svezia e Slovenia, e da ultimo la richiesta di reintrodurre per 2 anni i controlli alle frontiere per far fronte all'ondata migratoria, stanno ponendo seriamente a rischio una delle più importanti conquiste dell'Europa, quella della libera circolazione delle persone all'interno dello spazio comune europeo. Sospensione temporanea non significa abolizione, e tuttavia per la prima volta nella storia europea si sta ponendo in discussione un principio cardine, un valore fondante e identitario che ha risvolti politici e sociali, ma anche economici. Se si pensa a quali sarebbero i costi, certamente ingenti, che i paesi europei dovrebbero sostenere se tornassero i controlli alle frontiere, ritardi, problemi per gli autotrasportatori, per i singoli cittadini, per non parlare delle migliaia di lavoratori che attraversano di continuo le frontiere europee e per rimettere in piedi i posti di controllo. Era il 14 giugno del 1985 quando a bordo della Princess Maria Astrid, una motonave ormeggiata sulle rive della Mosella, nella piccola cittadina lussemburghese di Schengen, vennero firmati i primi accordi di libera circolazione. La prima soppressione effettiva dei controlli alle frontiere arrivò però solo nel 1996 tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. L'Italia ha adottato il Trattato di Schengen nel 1990. Da allora, all'interno della zona di libera circolazione, i cittadini dell'Unione Europea e quelli di paesi terzi possono spostarsi liberamente senza essere sottoposti a controlli alle frontiere. Lo stesso trattato prevede però che i membri dello spazio Schengen abbiano la possibilità di ristabilire controlli eccezionali e temporanei in presenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, o di gravi lacune relative al controllo delle frontiere esterne, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento generale dello spazio Schengen. La Germania ha reintrodotto il 13 settembre 2015 i controlli frontalieri al confine con l'Austria, un provvedimento temporaneo che non implica la chiusura delle frontiere. Anche l'Austria ha ripristinato i controlli dei documenti al confine con l'Ungheria e 2.200 militari sono stati inviati a presidiare la frontiera, mentre la Slovacchia ha deciso di reintrodurre i controlli frontalieri con l'Austria e con l'Ungheria. Praga ha inviato 200 poliziotti ai passi di confine con l'Austria, mentre i Paesi Bassi hanno annunciato che effettueranno controlli a campione ai confini del paese, seguiti dalla Danimarca, che ha introdotto temporaneamente i collegamenti ferroviari e stradali con la Germania, nel tentativo di limitare e controllare il transito di migranti diretti in Svezia. Anche il cinema ci aiuta a raccontare, in questo caso con l'arma della satira, il tema delle dogane che chiudono per effetto degli accordi europei, come mostra il film Niente da dichiarare di Danny Boone del 2010. Che tragedia, è tutto finito! Guarda, hanno firmato! No. Tra 7 anni niente più dogana! No! Alla vigilia del passaggio all'Europa il suo zelo antifrancese è molto mal vissuto. Antifrancese? Io? Devo andare a dire a tuo fratello di calmarsi perché è la causa di questo ingorgo mostruoso. Cerca di essere gentile con lui. Porco francese di merda! Abbiamo in linea Pier Virgilio D'Astoli, che è presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, ci aiuti un po' a capire meglio questa vicenda di Schengen. Intanto, volevamo anche un po' approfondire il tema delle conseguenze possibili di una sospensione del trattato. Come avete detto, le conseguenze sono di vari tipi. Intanto il ristabilire le frontiere interne significa apportare una difficoltà enorme, anche danni alle imprese nella libera circolazione delle merci, e poi un danno alla libera circolazione dei lavoratori. Ricordiamoci che le frontiere sono state abolite un po' di anni fa, ma fin dall'entrata in vigore dei trattati di Roma era stato stabilito il principio della libera circolazione dei lavoratori, e quindi ristabilire le frontiere interne significa in qualche modo frenare o addirittura impedire questo elemento fondamentale del processo di integrazione europea, che era la mobilità dei lavoratori. E poi la cosa più grave è il segnale che noi diamo a tutta l'opinione pubblica, che l'Europa unita in qualche modo si frantuma attraverso queste decisioni di questi stati che sono stati detti anche nella vostra trasmissione, che hanno deciso appunto di reintrodurre i controlli alle frontiere interne. Insomma, l'Europa si sta frammentando e poi lo vedremo adesso nella chiacchierata, l'unica soluzione è quella di trovare una soluzione europea, non certo una somma di soluzioni nazionali. Infatti, anche perché nella ricostruzione che abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori, abbiamo ricordato che nell'85 si cominciò a istruire questo percorso che avrebbe portato poi alla libera circolazione, principio fondamentale. E poi nel corso degli anni i vari paesi si sono adeguati. L'Italia, se non ricordo male, è entrata in Schengen nel 1990. Allora, ma a questo punto, soluzione europea e quindi? Cioè, cosa si può fare per trovare un'intesa? Perché obiettivamente c'è un problema, è molto serio con i migranti. Bene chiarire questo, che le frontiere interne dei paesi che fanno parte dell'area Schengen non esistono proprio più, cioè chi di noi attraversa certo. In treno o in macchina o a piedi o in bicicletta le frontiere fra i paesi membri, non c'è più barriera in qualche modo, quindi reintrodurre le frontiere interne significa reinstallare quei caselli, sì. O quelle strutture, quelle casematte che noi vedevamo una volta quando attraversavano le frontiere, che non esistono più. Immaginate voi il costo in qualche modo di reintrodurre queste barriere. Non è soltanto il problema di controllare i passaporti, perché quando noi viaggiamo anche con gli aerei all'interno del nostro paese, al check-in chiedono il nostro documento d'identità dall'11 febbraio del 2000, settembre del 2001. E quindi significa reinstallare appunto questo sistema di controlli. Ora il problema non è l'attraversamento interno, perché noi abbiamo visto benissimo che i terroristi girano per l'Europa con grande facilità. Il problema è avere un effettivo controllo delle frontiere esterne. E da qui la proposta della Commissione di creare delle guardie di frontiera europea alle frontiere esterne. Questa è la soluzione che in qualche modo consentirebbe di dare una risposta, per esempio, anche al governo tedesco, e non soltanto al governo tedesco, i quali hanno detto con molta chiarezza che l'unico modo di non restaurare le frontiere interne è quello di rafforzare le frontiere esterne. Ecco, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, proprio nei giorni scorsi, a proposito dell'eventualità di una revisione del Trattato di Schengen, ha detto che la fine del sistema Schengen avrebbe conseguenze economiche gravissime per l'economia europea, con l'aggravio della disoccupazione. Se non si potesse più circolare liberamente nell'Unione Europea, si vanificherebbe anche la moneta unica. Quindi, insomma, lo scenario è molto molto preoccupante per l'Europa. E appunto è quello che dicevo, perché questa cosa della libera circolazione ha come conseguenza quello di restaurare delle barriere fisiche che sono state abolite dal momento in cui noi abbiamo instaurato il mercato unico. E restaurare queste barriere significa appunto rendere molto difficile e poco penetrabile i mercati dei 28 paesi. Noi abbiamo sempre detto che l'Europa è diventato uno spazio unico senza frontiere, come gli spazi unici nazionali, significa appunto rispezzettare l'Europa in 28 mercati nazionali. Si ha un po' la sensazione che dopo la crisi della Grecia, l'anno scorso lo ricordiamo, la Grecia è andata un passo dall'uscita dall'Eurozona, che ha toccato obiettivamente il punto più basso degli ultimi anni del faticoso processo di integrazione europea, ma la vera emergenza ora sia proprio questa, determinata proprio dall'afflusso di migranti. La soluzione europea non mi sembra però che sia nelle premesse della riunione che c'è stata, ad esempio, all'inizio della settimana ad Amsterdam dei ministri dell'interno. Sì, ci sono alcuni ministri, in particolare quelli dei paesi che hanno deciso di sospendere Schengen. Poi, tra l'altro, parliamoci chiaro, quando si parlava di sospensione eccezionale era legata ad eventi eccezionali. Sì. Pensiamo per esempio al problema degli hooligans, al problema dei vertici G7 o G8 che richiedevano in qualche modo un controllo alle frontiere per evitare che le frontiere fossero attraversate da facinorosi o da scriteriati. Quindi quella era l'idea dell'eccezionalità. Evidentemente non si può più parlare di eccezionalità se questa eccezionalità dura sei mesi o addirittura due anni. Ora, alcuni paesi, penso per esempio alla Svezia, hanno detto con chiarezza che la soluzione non può che essere europea, e anche altri paesi lo hanno detto, come per esempio l'Italia. Ora bisogna essere coerenti, se la soluzione europea, la soluzione non può che essere quella che è stata immaginata dalla Commissione europea, con un forte controllo delle frontiere esterne. E questo potrebbe contribuire a, in ogni caso, a rendere il fenomeno più gestibile, perché poi, insomma, se no, obiettivamente poi c'è il problema che soprattutto la Germania ha a che fare con questioni di politica interna non indifferenti su questo tema. E purtroppo i nostri governi tengono conto del breve termine, ma non del medio termine, perché corrono in qualche modo dietro i fenomeni populisti o le pulsioni populiste che ci sono nei nostri paesi. Ora bisogna tener conto che la soluzione non può che essere una soluzione a medio termine, spiegando ai nostri cittadini i vantaggi che noi abbiamo da uno spazio unico senza frontiere. Grazie molto Pier Virgilio D'Astoli per averci aiutato a comprendere meglio questa complessa vicenda della possibile sospensione o revisione del trattato di Schengen. Buona serata. Grazie.